Il 1° luglio il TAR si dovrà pronunciare, ma sì, sai che Cota ha promosso una grande manifestazione, un sfileranno lunedì prossimo, hanno parlato di golpe sudamericano. Sì, è curiosa questa cosa. Lei vuole rubare le elezioni. Io non voglio rubare niente, intanto credo che sia un fatto di legittimità democratica. È curioso manifestare contro un tribunale che non si è neanche ancora pronunciato, vuol dire che lui stesso sa di essere in colpa, cioè sa che le probabilità che il tribunale metta in chiaro che ci sono state delle cose non corrette sono elevate, se fa già una manifestazione.